Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia. L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della stampa. Presiede alla quotidiana riunione dei capi servizio. Al termine, il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta. In un covo delle BR a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno. Intorno alle 13:55. Due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno, in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore e poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone Carmelina Costa racconta. No, mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendo: mi chiami subito qualcuno perché hanno sparato il professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne, l'ho visto coricato, perdeva tantissimo sangue dalla bocca perché le hanno sparato da qui in su, perché le gambe non erano niente. Io ho chiamato subito il 113 appunto dicendo di mandare anche l'ambulanza, prima però è arrivata la polizia per l'ambulanza. 10 minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino, giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno. Qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato Carlo Casalegno. 17 novembre, un volantino viene trovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione: Brigate per il comunismo, colonna Maracagol. Casalegno, pennivendolo di Stato, è un uomo della DC che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa, data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Bader, Gudrun Ensslin e Jean-Karl Rasp, avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stamain, Germania. Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce. Sì, pronto? Vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditino i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai. Sappia, il ministro di polizia. Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista. Carlo Casalegno nasce a Torino nel 1916. Laureato in legge, è dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione. Collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa. Dal 1968 è vice direttore del quotidiano torinese. La sua passione di sempre resta la storia. Compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte. È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audaci opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia. Sulle pagine della stampa, Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio 1965 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino. Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli. Piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili. Accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci. Sul finire degli anni 60, Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi. È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio. E il 10 marzo del 77 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. Il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento, accusata di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Bologna. Senti, c'è la polizia alla porta. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, si sta fanno tappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto di mandato. 18 marzo 1977. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina. E indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi con questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che è democratico, indubbiamente, è le grandi masse. Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenze da parte di estremisti e di autonomi. Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo, indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco. c'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti. 11 novembre 1977, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive sulle pagine del quotidiano La Stampa la sua condanna a morte. Al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra ed estrema sinistra, che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente. Dopo la pausa, il racconto di Giallo e Nero sull'omicidio di Carlo Casalegno. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Peci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno. Tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale e quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla stampa del problema del terrorismo e lo trattava con estrema decisione. A mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto questo che dava fastidio. Casalegno era un maestro nello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione. L'organizzazione non tollera l'ironia né tollera di essere sbeffeggiata. Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia il loro declino. Perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida. È fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno. Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 l'attuale responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, Riccardo Chiaberge, muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa. Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo, però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità, e lui era un vice direttore, e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'economia a tarda sera e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commento, era un uomo di poche parole, ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quelle settimane, in quei mesi alla Stampa. E rimane ancora viva la testimonianza di Andrea Casalegno, figlio di Carlo, oggi giornalista del Sole 24 Ore. Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci. L'azione, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa, cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi, diciamo, è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto, perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente e quindi ha descritto tutto per filo e per segno. Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli scritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre. Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o Neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità e con più, nel modo più esplicito, teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile. Non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo, in una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977, alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse il più esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato. Lei era un militante di lotta continua, che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni? Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa. Era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai. Ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiuto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto. Era, naturalmente il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto. Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino? Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti, che ci fosse qualche infiltrato naturalmente può possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa. E quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970. Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti. Sì, sono stati sconfitti perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no? Di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che se ne nassero in modo del tutto inutile dal loro stesso punto di vista, molto dolore all'interno di famiglie, e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle, dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà Brigate Rosse, di Massimo D'Antona e di Marco Biagi, dimostra come appunto anche quando ha perso ogni contatto con la realtà la follia continua ad esistere. Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno? Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno, quindi insomma la memoria nella città continua, direi, quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggere si ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline di Biacchessi @radio24.it.